per farlo fuori, per impedirgli di parlare l'11, rimaneva il 10 giugno, cioè il martedì. Matteotti viene pedinato dal 20 maggio e, secondo Canali, Dumini e i suoi complici hanno il compito di non farlo intervenire nella successiva riunione alla Camera dell'11 giugno. È probabile quindi che si voglia utilizzare proprio il suo viaggio in Austria per farlo sparire. Ma quel viaggio Matteotti lo annulla, sabato 7 giugno. Domenica 8 giugno resta a casa con la famiglia. Lunedì 9 i suoi aguzzini non riescono a intercettarlo. Restano 24 ore prima della seduta della Camera e Matteotti non deve parlare. Il 10 giugno del 24, martedì, alle 16, Matteotti esce da casa, è solo. Ascoltiamo Giancarlo Matteotti, figlio di Giacomo, il deputato liberale Tullio Benedetti e ancora Emilio Gentile. Il 10 giugno, poco dopo le 16, esce di casa per recarsi alla biblioteca della Camera. All'angolo tra via Scialoia e il lungotevere Arnaldo da Brescia è ferma una lancia con 5 uomini a bordo. Secondo alcune testimonianze, l'autista suona continuamente la tromba per coprire, in una Roma allora con scarso traffico, le grida che provengono dall'interno della lancia. Fu un portiere che notò la macchina e, nonostante che gli si dice di no, lui ne prese il numero. La targa corrisponde a quella di un'auto noleggiata da Filippo Filippelli, direttore del Corriere Italiano, giornale fiancheggiatore del regime. Questo giunse trafelato nel tempo che io facevo colazione. Loro, quando giunse trafelato il Filippelli a dire che era in gravissimo pericolo e che domandava aiuto e consiglio a noi altri per quello che poteva fare. Qualcuno gli consigliò, e credo che fosse il Naldi, di mettersi in salvo e di scrivere delle memorie che avrebbero servito nel caso che fosse stato ricercato, che fosse stato ristabilire la verità. Filippelli tenta di riparare in Francia. Viene arrestato e comincia a collaborare raccontando quello che sa. La macchina lui l'ha imprestata ad Amerigo Dumini. Questi, la sera del 10, dopo aver parcheggiato l'auto al Viminale, si è recato da Filippelli, al quale confida l'avvenuta uccisione di Matteotti. Spaventato, Filippelli aiuta a far sparire dalla macchina, prima che venga riconsegnata all'autorimessa del noleggio, le macchie di sangue che la imbrattano, insieme ai segni della feroce lotta ingaggiata da Matteotti con i suoi aggressori. Amerigo Dumini ha dei complici fatti arrivare da Milano. Sono 7 persone: Putato Aldo, Volpi Albino, Viola Giuseppe, Poveromo Amleto, Panzeri Filippo, Malacria Augusto, Tirschalt Otto. Dumini confessa a Filippelli di aver ricevuto l'ordine di uccidere Matteotti da Cesare Rossi e Giovanni Marinelli, rispettivamente capo dell'ufficio stampa di Mussolini e segretario amministrativo del partito fascista, e rivela in tale circostanza l'esistenza della CETA. In pochi giorni gli esecutori materiali sono tutti fermati. Solo Panzeri riesce a rimanere latitante sino al processo. La posizione di Otto Tirschalt verrà invece derubricata. Di lui si dirà che fosse un doppio giochista e che cercasse addirittura di avvisare Matteotti del pericolo. Sono tante, troppe le stranezze e i dubbi su questa azione squadristica. I magistrati assegnati all'indagine, Tancredi e Del Giudice, convinti da subito del movente politico del crimine, impostano le indagini in tale direzione. L'indignazione però non si ferma, scuote tutto il paese. Alcuni ministri si dimettono. I liberali passano all'opposizione, i cattolici e i socialisti si ritirano sull'Aventino, ovvero rifiutano di partecipare ai lavori in Parlamento finché dentro ci saranno i fascisti. Al punto che alla fine di giugno, per rendere vano il boicottaggio, le sedute della Camera vengono sospese. Gramsci propone uno sciopero nazionale, poi, per evitare scontri di piazza con le squadre fasciste, lo annulla. Gli industriali si interrogano sulla fiducia accordata al fascismo, i nazionalisti e altri prendono le distanze. Certamente il delitto Matteotti mette in crisi il fascismo. È vero che dopo il 10 giugno Mussolini è in pericolo, è vero che il fascismo può disgregarsi, ma è proprio in questo momento che, di fronte all'inerzia dell'Aventino, posizione certamente morale molto forte ma politicamente inefficace, il fascismo intransigente, il fascismo totalitario trova spazio per riprendere la sua iniziativa e spingere verso una soluzione autoritaria. Nel frattempo i due magistrati, Tancredi e Del Giudice, approfittano di questo vuoto di potere e vanno avanti con le indagini. Si setaccia la campagna romana alla ricerca del corpo del deputato socialista. Dal rapimento sono passati 2 mesi, ma il cadavere di Matteotti non è ancora stato trovato. Per il fascismo sono giorni difficilissimi e quel cadavere, quello che può rappresentare quel cadavere, fa paura.

l'indagine del Senato si risolve in un nulla di fatto. De Bono viene assolto per insufficienza di prove e viene esclusa qualsiasi legame tra il delitto Matteotti e gli squadristi della Ceca. Il lavoro della magistratura ordinaria viene di fatto interrotto per più di 6 mesi. Le opposizioni si giocano le ultime carte e Mussolini risponde alla Camera il 3 gennaio del 25. Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano ad impiccare un uomo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Il 3 gennaio viene instaurato il regime fascista. Il 12 gennaio un decreto disciplina severamente l'apertura di ogni circolo e vieta ad ogni dipendente pubblico di far parte di qualsiasi tipo d'associazione. Sarà esteso poi ai magistrati, ai docenti universitari e perfino alle associazioni combattenti. Nello stesso giorno sono chiusi 95 circoli, 25 organizzazioni sovversive sospette, 120 gruppi e associazioni anticostituzionali, 150 esercizi pubblici considerati ritrovi, arrestati 111 sovversivi, 655 perquisizioni domiciliari. Controllate tutte le 611 reti telefoniche, i 4.433 posti pubblici, spulciati uno a uno i 145.797 abbonati. Chi sono, cosa fanno, a quale partito politico appartengono? Il regime può avere inizio. Dunque, a 6 mesi dal delitto Matteotti, il fascismo diventa una dittatura. Mussolini si assume la responsabilità politica del delitto. Nel giugno del 25, conclusi i lavori della commissione senatoriale con l'assoluzione per insufficienza di prove a carico di De Bono, riprende l'attività della magistratura ordinaria. Il processo si svolge nel marzo del 26 a Chieti ed è pressoché una farsa. Dumini, Poveromo e Volpi vengono condannati a 5 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, di cui 4 anni amnistiati. Dopo solo 2 mesi saranno liberi. Malacria e Viola sono invece assolti e scarcerati. Dumini, una volta libero, fa capire a Mussolini che ha mandato all'estero un testamento con la storia e le motivazioni del delitto e allora viene aiutato ad andare in Libia, dove diventa un ricco colono anche grazie ad affari discutibili e a intrallazzi. Nel suo testamento, pubblicato solo negli anni Ottanta, ammette che Matteotti è stato ucciso su ordine del regime perché non rivelasse la corruzione legata all'affare Sinclair Oil. Nel 1945 a Piazzale Loreto l'Italia ha chiuso il capitolo fascista. L'anno dopo la Repubblica Italiana riapre il caso Matteotti a 22 anni dall'omicidio e a 20 anni dal primo processo. La verità sull'omicidio Matteotti viene finalmente completamente a galla. La causa della morte di Giacomo Matteotti, come già sottolineato dall'autopsia, dimenticata nel processo di Chieti, viene attribuita ad una violenta coltellata inflitta nella zona toracica in corrispondenza del cuore. È la vedova di Volpi, morto nel frattempo, a testimoniare che il marito le confessò di avere lui stesso inflitto la coltellata mortale istintivamente per il dolore causato da un calcio che il deputato socialista era riuscito a dargli sui testicoli. Certo, questo tipo di difesa di Matteotti e il fatto che i pantaloni gli erano stati sfilati mentre era ancora vivo fanno ipotizzare che gli aggressori volessero ricostringerlo a subire violenza fisica. Quello stesso oltraggio subito da Matteotti nel 21 a Rovigo e di cui sicuramente i fasci locali si erano vantati. Un tentativo di violenza, una reazione decisa, un fendente vibrato con rabbia. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.